1, 2, 3, go. Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera a tutti, bentornati a un'altra puntata delle Buonanotti degli Allenamenti. Siete qui con Mendo. Come state? State bene? Io questa settimana sono stato abbastanza male. Mi sono preso un virus e ho passato 4 giorni chiuso in casa senza andare a lavorare, però devo dire la verità che un po' mi serviva. È stato un po' alleviante per lo stress, per quanto abbia passato le giornate in bagno, stando come un cane. Però ogni tanto serve, ti rimette in contatto con te stesso, ti fa uscire da questa routine, da questo continuare a schizzare, a questo movimento frenetico che è fondamentalmente la nostra vita. E in questi giorni ho ritrovato uno dei miei poeti preferiti, Lawrence Ferlinghetti, che su questo devo dire la picchia piano, se mi passate il termine. E questa sera volevo leggervi un paio di sue poesie. E la prima fa così. Il mondo è un bel posto per esserci nati, se non vi importa che la felicità non sia sempre così divertente, se non vi importa che un po' d'inferno, una volta tanto, proprio quando tutto va bene, perché anche in paradiso mica cantano sempre. Il mondo è un bel posto per esserci nati, se non vi importa che qualcuno muoia tutti i momenti, o magari solo di fame per un po' di tempo, il che non è poi tanto male se non siete voi. Oh, il mondo è un bel posto per esserci nati. Se non vi importa molto, qualche cervello morto nelle alte sfere o una bomba o due di tanto in tanto nei vostri visi alzati. O c'è il teatro in proprietà di cui è preda la nostra società, con i suoi uomini distinti e quelli estinti, i suoi preti e altri poliziotti, le sue varie segregazioni e le investigazioni congressuali e altre costipazioni che la nostra carne sciocca eredita. Sì, il mondo è il miglior posto per un mucchio di cose come far buffomanate e fare l'amore, essere tristi e cantare canzoni triviali e avere ispirazioni, vagabondare guardando ogni cosa, odorando fiori e dare pizzicotti alle statue e perfino pensare e baciare la gente e far bambini e portare pantaloni e agitare capelli e ballare. E andare a nuotare nei fiumi e fare picnic a mezz'estate e insomma godersi la vita. Già, ma poi sul più bello di tutto questo arriva sorridendo l'imprenditore delle pompe funebri. Ve ne leggo un'altra. E questa, la vita è un circo, no? E fa così. Questa vita non è un circo, dove i cani timidi dell'amore recitano. Guardando, mentre il tempo schiocca la sua frusta furba che ci spinge sui nostri passi, eppure passano galleggiando gaie zattere da parata, adorne di belle pupe in tè di seta, accudite da scimmie premurose, monaci ingannati, callosi vecchi indiani, e babbuine a cavallo di docili tigri, piene di donne, mentre storti corni fanno musica da giostra, e Pierrot, da pantomima, castrato il disastro con strane risate tristi e grossi gorilla lanciano in cielo tenere fanciulle, mentre ballerini e imbonitori del Luna Park, tutti bevuti fino al collo, assumono pose da manifestanti teatrali e barcollano dentro ogni cosa rotolante, mentre ancora intorno alla pista galoppano i deformi cammelli del desiderio, e non tutti i clown alla Emmett Kelly, sempre inventando drammi immaginari, con tutte le nostre maschere per il viso. Mangiamo perfino false ultime cene su tavole pieghevoli e ci mettiamo in croce per burla su croci di segatura. Eppure alla fine ci inghiottiamo per salvare le nostre anime da circo, le ostie anch'esse immaginarie della grazia. Beh, che dire? Ferlinghetti la spinge sempre piano. E volevo lasciarvi con una canzone che ho ascoltato in questa settimana di Tragedia con un gruppo che mi piace un sacco, da un nome abbastanza buffo, e sono i Rainbow Kitten Surprise con Cocaine Jesus. A voi, buonanotte a tutti. And it isn't when you're talking for your namesake. Jesus, Mary, Magdalene, you are you okay? Sitting by the well, Jill, you're falling down the hill, Jack and everybody laugh. Don't you pray to a cocaine Jesus in a black four-seater. got a man, don't need him, but you wait. Call me when you want, or just call me when you need it. If you only ever need it for the day. Thing you believe or word that you leave.